Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana, di nuovo con voi Sebastiano Barisoni, speriamo anche per i prossimi giorni, le prossime puntate. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria, beh, chiaramente di nuovo torna sul palcoscenico l'Europa, o meglio il giudizio europeo sulla nostra manovra finanziaria, nel caso specifico le privatizzazioni. È arrivato un giudizio positivo e ne parleremo nella seconda ora del programma da parte del commissario europeo Olli Rehn sulle privatizzazioni italiane, perché è stato detto, beh, buono il piano, però sono state aggiunti anche altri elementi. Questo nel giorno in cui ha parlato di Europa e di politiche economiche europee sia il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, il quale ha detto attenzione, il nostro mandato è uguale, sia che i prezzi siano troppo alti sia che i prezzi siano troppo bassi, e infatti ha parlato di mandato simmetrico sui prezzi, ricordando come appunto in questo momento i prezzi siano troppo bassi. E poi ha detto i tassi di interesse bassi possono minare la stabilità, ma non ora. Se vi sono dei rischi locali, le autorità nazionali, le banche centrali nazionali devono usare i loro strumenti, e serve un'autorità unica per ristrutturare le banche in difficoltà, un'autorità indipendente singola che deve prendere le decisioni nell'interesse dell'Europa, non nell'interesse dei singoli paesi. Ancora di Europa ha parlato il Premier Enrico Letta, dicendo che la Banca Centrale Europea, ve l'hanno già ricordato i nostri GR, la Banca Centrale Europea non da sola non basta, occorre rinforzare anche la Banca Europea degli Investimenti. E poi sul fronte sempre dell'Europa ha detto Letta, sarebbe un errore fatale lasciare tutta, diciamo, il salvataggio dell'Europa in mano alla Banca Centrale Europea, nonostante l'autorevolezza di Draghi. I conti italiani sono in ordine, bisogna spingere sulla strada della crescita, e il semestre italiano di presidenza, quello che inizia a giugno dell'anno prossimo, deve essere un semestre sia di legislatura della crescita e non della sola austerità. E a questo proposito c'è stata la frase molto citata in cui ha detto Letta, sul fronte europeo ci sono alcuni ayatollah del rigore, e secondo questi ayatollah del rigore il rigore non è mai abbastanza, ma di troppo rigore l'Europa finirà per morire e le nostre imprese finiranno per morire. Noi molto molto modestamente è 2 anni che lo diciamo, dai tempi in cui esplose la crisi greca. Allora, ancora per quello che riguarda altri temi, Bruxelles, ripeto, ha promosso le dismissioni italiane, però adesso chiede misure strutturali, cioè le privatizzazioni che porteranno, si ipotizza, 12 miliardi, sono misure una tantum, non le puoi ripetere ogni anno. Secondo il ministro all'economia Saccomanni non vi sarà alcuna modifica alla legge di stabilità, alla vecchia legge finanziaria, dopo i rilievi di Bruxelles, e le misure prese nell'ultimo mese rispondono alle indicazioni dell'Unione Europea. Ancora, e chiudiamo con l'Europa, il presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz ha detto, e lui è tedesco, però si è associato alle critiche alla Germania, dicendo che il problema del surplus nell'export tedesco, la Germania esporta più, molto più di quanto non importi, ma ripeto, è un problema di utilizzare questo surplus per fare investimenti e aumentare i consumi in Germania, non è che la Germania debba esportare di meno, ci mancherebbe. Beh, Schulz ha detto che è un problema e va ridotto, e si è quindi associato alle critiche internazionali. E poi il vicepresidente della Commissione Europea Tajani ha detto che bisogna ascoltare la voce di chi vuole far crescere un'Europa diversa anche con una moneta diversa. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, come sempre scrivete critiche di qualunque tipo, c'è un unico rilievo a cui non rispondo, l'ho già fatto una volta, e cioè non devo giustificare a nessuno i miei problemi di salute o meno, e quindi è chiaro che l'obiettivo mio di esserci il più possibile in questo programma, non sempre, per alcune vicende, per alcuni noti, sarà ed è possibile, ma tant'è, non penso, non chiedo ai miei ascoltatori perché non mi ascoltano alcuni giorni, perché alcuni giorni non vanno al lavoro. Dicevo 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, per quello che riguarda gli altri temi che toccheremo, c'è un tema delicatissimo. Al di là della cronaca, mi riferisco a Genova. A Genova si sta chiudendo la vertenza con il comune, però qui il tema delle municipalizzate è un tema serissimo. Io non voglio dire che vadano privatizzate tutte le municipalizzate e tutte quelle del trasporto, però non possiamo continuare a dire che sono troppe 3.000 municipalizzate nel paese. Municipalizzate vuol dire le aziende con partecipazione di comuni, in realtà io le chiamo municipalizzate, ma ci sono anche le province dentro e le regioni che fanno concorrenza al settore privato, che sono spesso ricettacolo di posti di politici o ex politici trombati, che vengono gestite con logiche clientelari, che le logiche sono solo politiche e non di efficienza, e poi quando si cerca di privatizzare una municipalizzata, no, viene giù il mondo. Anche perché oggi parleremo di un caso che non riguarda Genova, ma è presente sul Sole 24 Ore, è l'ATAC di Roma. Pensate che in 10 anni l'ATAC è costata ai romani 6 miliardi e 400 milioni di euro, peggio di Alitalia per il paese, no? Allora, possiamo ragionare in maniera laica, senza schieramenti ideologici, se bisogna tenere tutte queste municipalizzate che sono in perdita e quindi sono oggettivamente male gestite? No, chiedo, se ne può parlare? Ogni volta che si tocca un'azienda di trasporti si blocca il traffico urbano e il trasporto locale in quella città? Perché sennò, voglio dire, facciamo tanti ragionamenti e poi ognuno continua a mantenere il suo piccolo giardino di privilegi o comunque di non efficienze, perché parliamo anche di Genova, insomma, li avete visti i conti della municipalità di Genova e trasporti, no? Altro tema di cui parleremo, oltre a questo, chiaramente l'Europa e la posizione di Draghi, ma anche, attenzione, l'IMU. Perché lo dico? Perché su questo il rinvio al prossimo 10 dicembre per il pagamento del saldo IMU apre moltissime ipotesi, non tutte belle, e tant'è che, come scrive oggi sul Sole 24 Ore, c'è il rischio che alla fine una possibile soluzione sul tavolo del governo possa essere quella di far pagare i contribuenti, con l'effetto finale che milioni di prime case, soprattutto quelle di minor valore, si troverebbero a pagare un'imposta superiore a quella dell'anno scorso. Praticamente i comuni stanno chiedendo al governo una compensazione integrale di 500 milioni di euro già inseriti nel budget. La borsa come sta andando? Allora, Piazza Affari è sostanzialmente invariata, meno 0,13%, Parigi più 0,40%, Francoforte più 0,17%, Londra invariata, l'America invariata anch'essa, giornata priva di grossi spunti, va molto bene Salvatore Ferragamo più 4%, Mediaset più 3,30%, la Popolare dell'Emilia Romagna più 2,60%, Exol più 2,30%, Buzzi Unice in più 1,60%, Mediobanca più 1,5%, come Fiat, Telecom più 0,70, Male Saipem meno 2,40, Monte dei Paschi meno 2, Luxottica meno 1,40, Atlantia meno 1,30, Banco Popolare e Generali meno 1%. Ancora due notizie in breve per quello che riguarda le privatizzazioni. Questa mattina ospite di Giovanni Minoli a Mix 24, Antonio Catricalà, vice ministro dello sviluppo economico, nonché ex presidente per molti anni dell'antitrust. Sulle privatizzazioni, Catricalà ha un po' raffreddato gli entusiasmi, ha detto attenzione, per quello che riguarda la RAI non sarà prima del 2016. E poi ha fatto anche una stima sul piano complessivo di privatizzazione. Sentiamo i due passaggi assieme: la RAI non prima del 2016 e poi invece come dovrebbero essere generati questi 10-12 miliardi di incassi. Io ho parlato di privatizzazione di qualche asset della RAI, sì, quando la concessione era in piedi ed era bella lunga. Ora siamo a 2 anni dalla scadenza della concessione, mi pare che parlare di privatizzazione sia veramente antieconomico, sarebbe un fuor d'opera. Quindi non è e non sarà sul mercato fino al 2016, poi si vedrà. Io penso proprio di no, venderemmo un asset privo di valore. Penso una decina di miliardi, ma non mi va di trattare i miliardi come noccioline. Insomma, bricioline però, non noccioline ma briciole più o meno. No, però una bella cifra, sì. Le useremo per ridurre il debito. Senta, il professor Guarino però, che è un esperto di privatizzazioni, dice che quelle degli anni 90 sono state un errore. Questi saranno meglio? Sì, queste sono obbligate. Quindi non è detto che siano meglio, sono obbligate. Le dobbiamo fare per forza. Senta, comunque, privatizzare è facile da dire, difficile da fare. Sarà una svendita di gioie di famiglia, insomma, come al solito. No, dobbiamo valorizzare al massimo il nostro patrimonio e venderlo al meglio. Ecco perché dobbiamo insistere perché il sistema Italia faccia squadra e dia valore ai nostri asset. E comunque ricordo, stante il piano che è stato diffuso, sarà venduto il 3% di Eni con un incasso stimato di 2 miliardi, 40% di Fincantieri che vale 600 milioni, il 50% di CDP Reti, più o meno sono 3,7 miliardi, e il 60% di Grandi Stazioni che sono 600 milioni, e anche il 60% della SACE, che è quella che assicura le nostre imprese sul rischio estero, che vale, stando alle stime, 5 miliardi, poi una quota di Estima Microelectronics sono circa 700 milioni, e il 40% di Enav, su cui non abbiamo ancora stima del possibile incasso. Allora, devo fare la lista anche oggi di alcuni sprechi e cattiva gestione del denaro pubblico, però una notizia la voglio dare subito e riguarda un dato diffuso oggi da Unioncamere attraverso il sistema informativo Excelsior, quello di Unioncamere e il Ministero del Lavoro. Allora, la crisi rende sempre meno chiusi, ossia così in qualche modo con la puzza sotto il naso, i lavoratori italiani, che si adattano molto di più rispetto al passato. Però, lo rileva la stessa Unioncamere, ci sono ancora 47.000 posti di lavoro difficili da reperire. Attenzione, la cifra può sembrare alta, in realtà sono 18.000 in meno sul 2012 e nel 2008 pensate che i posti non di lavoro non reperibili, per cui mancavano i lavoratori, erano 220.000, quindi da 220 nel 2008 a 47.000 quest'anno si capisce come, insomma, molti posti o siano scomparsi o siano stati presi perché c'è una maggiore flessibilità nel prendere questi posti di lavoro. Praticamente tra i laureati i primi in classifica a essere ricercati sono gli esperti di software e di gestione aziendale e gli analisti programmatori. Tra i diplomati si cercano sviluppatori di software, disegnatori tecnici e assistenti sociosanitari. Sono le stesse imprese a chiarire come questo non allineamento sul mercato del lavoro sia possibile anche in un periodo in cui l'offerta è elevata e la domanda è bassa. Perché? Perché quelli che mancano, e qui lo dico senza aprire polemiche con i laureati in scienze della comunicazione, avete scritto, era un esempio, quelle che mancano in questo paese, i genitori che hanno figli che devono scegliere la carriera di scuola superiore o universitaria, prendono bene nota di questo, mancano tutti i profili dei laureati in materie scientifiche e tecniche, per esempio tra le più richieste ingegneria elettronica e ingegneria delle informazioni. E adesso, prima di passare al tema delle municipalizzate, di un paese che ha molta difficoltà nei fatti a cambiare, ripeto, non c'è nulla di ideologico nel chiedere la privatizzazione, se però una società è mal gestita dal pubblico, io non ci vedo niente in contrario, venderla, cosa continuiamo a far perdere soldi al comune o alla provincia che poi dobbiamo ripianare noi con le addizionali comunali e regionali, ma perché devo pagare io per una cattiva gestione? Lo prende un privato e vediamo se è capace all'interno di certi perimetri, nessuno sta dicendo che poi monti sull'autobus e paghi 8 euro il biglietto, però all'interno di certi perimetri, voglio dire, vediamo se è capace di gestirla meglio, almeno non me lo devo caricare io. Però prima di questo vediamo anche come i soldi pubblici, continuiamo con la nostra, ahimè, rubrica sui soldi pubblici, nella speranza che prima o poi tutto passi, perché nulla è per sempre, anche se ci fate vedere sempre la solita vecchia scena. Brian Ferry, Roxy Music. Piemonte, no all'archiviazione di 43 indagati, altri 14 sono ancora in attesa di avviso chiusura indagini, 42 esponenti della regione Piemonte, tutti gli esponenti della Lega, molti del PDL e Mercedes Bresso del PD, nonché il presidente della giunta Roberto Cotta. I 43 hanno 20 giorni di tempo per chiedere di essere sentiti dai magistrati o presentare memorie. Che cosa viene contestato? Non so, a Cotta 25.000 euro di spese per conti di ristoranti, fast food, fiori, penne, cravatte, giocattoli per bambini. E poi il consigliere del PDL Anna Rosa Costa, 19.000 euro in ristoranti più 9.000 euro tra pneumatici, gioielli, profumi e altro, tutto messo a rimborso. Ma pure i profumi? Boh, è vero che nell'ambiente del consiglio comunale, regionale, l'aria non deve essere, diciamo, pesante, però... perché dobbiamo pagare a noi? Beh. E poi il presidente del consiglio regionale Valerio Cattaneo, PDL, 9.000 euro di alberghi, 1.800 euro in biglietti di auguri natalizi del Popolo della Libertà. Giolino Mastrullo, PDL, 39.000 euro in ristoranti, più di Cotta. Bar e generi alimentari, a cui si sommano 9.000 euro per televisori, occhiali, valigie in pelle, biglietti per lo stadio e 13.000 euro per pagare pullman e trasferta a sostenitori di Berlusconi in occasione del congresso del PDL. Ma anche televisori, occhiali, valigie in pelle? E dobbiamo pagarli sempre noi. Va bene, va bene. Giovanni Negri, consigliere dell'UDC, vengono invece contestate spese per pranzi nelle Langhe a base di tartufo. Allora, volete sapere qual è la cifra complessiva? Perché poi non dice, vabbè, ma stai a guardare le penne, il televisore, il profumo, la valigia in pelle, il tartufo. Sei un vero Savonarola? No, la procura contesta 1 milione di euro di rimborsi illegittimamente incassati tra il 2010 e il 2012. Oh, 1 milione di euro è sempre 1 milione di euro, no? Vabbè, vabbè. Attenzione alla vicenda Fondiaria Sai. Io non voglio infierire su Giancarlo Giannini, che appunto sembra non volerci più querelare, però non vi sono solo le pressioni su Berlusconi per far nominare l'ex presidente dell'ISVAP Giancarlo Giannini alla guida dell'antitrust. Ora, dalle carte delle indagini spuntano anche dei soldi che l'Igresti avrebbe versato a chi doveva controllarlo. Tutto sarebbe venuto attraverso una onlus sanitaria che riceveva i soldi dalla Fonsai di l'Igresti, poi li girava a Giannini, che era il presidente dell'ISVAP, l'autorità di vigilanza sulle assicurazioni. Un dettaglio. A denunciare ai giudici i pagamenti in favore di Giannini, che devono ancora trovare però adeguati riscontri probatori, sarebbero stati l'ex direttore generale di Fonsai Pierluigi Peluso, figlio del ministro Cancellieri, e l'ex AD Emanuele Erbetta. E qui attenzione, la posizione di Giannini si complica, perché sono gli stessi, diciamo, manager, ex manager di Fondiaria Sai a dire che pagavano attraverso le onlus Giannini. Vedremo se è vero. Dalle carte emerge anche che tra il 2009 e il 2010, quando era ministro della difesa, Ignazio La Russa avrebbe percepito dal gruppo Fondiaria Sai 451.000 euro come parcelle, spese sinistri e altre prestazioni di servizi. Va detto che La Russa ha replicato che quando era ministro non ha assunto alcun incarico né della Sai Fondiaria né da altri clienti, e si era autosospeso da avvocato, ed eventuali parcelle si riferiscono a pratiche acquisite e svolte negli anni precedenti. E adesso però un appello anche alle banche, perché va bene la politica, però va bene anche l'ISVAP e i rapporti di Ligresti con la politica. Insomma, parliamoci chiaro, non riesce a fare un buco come quello che ha fatto Ligresti o come quello che ha fatto Don Verzè su San Raffaele se non hai rapporti con la politica locale, anche romana. Dai, andate voi in banca a chiedere 1 miliardo 1,3 miliardi e vediamo cosa vi dicono con i conti che avete, su. Però attenzione, c'è anche il mondo bancario. Allora io vorrei capire una cosa. Tutto bene perché ci sarà un contratto da rispettare, ma come mai il direttore generale di Banca Marche, e mi riferisco a Massimo Bianconi, che è stato direttore generale dal 2004 al 2012, ha lasciato un'eredità di crediti in sofferenza per 2 miliardi di euro e un buco da 750 milioni di euro. Ora voi direte, cosa fa Banca Marche a un direttore generale che lascia 2 miliardi di crediti in sofferenza e un buco da 750 milioni? Perché, aggiungo io, ha prestito i soldi a persone, diciamo, che non davano garanzie ma erano valutate come merito di credito su merito di amicizia, merito di salotto, merito di frequentazioni, ma non merito di credito. Beh, tra il 2011 e il 2012 l'ex banchiere ha ricevuto compensi per oltre 7 milioni di euro. Questo era il controllo interno, la governance di Banca Marche. Cioè, non solo non vi siete accorti di quello che stava capitando, ma avete dato anche in due anni al direttore generale 7 milioni di euro di stipendi. Ok? Allora, va bene la politica, gli amministratori locali, fondere SAI, pure nel mondo bancario, dov'è la governance? Chi controlla? Cosa fanno i CDA? Gli azionisti dove sono? I revisori dove sono? Beh. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Parliamo delle municipalizzate italiane. Allora, Genova, aggiornamento, se adesso dovrebbe iniziare un incontro tra il comune e i sindacati. Dopo il quarto giorno consecutivo senza autobus, i dipendenti dell'AMT, l'azienda dei trasporti controllata dal comune, per cui si è ipotizzata una privatizzazione o in alternativa un ulteriore piano di risparmio, hanno deciso di proseguire a oltranza. Sembra che però il sindaco abbia recuperato dei soldi per arrivare a un accordo, il sindaco Marco Doria. Negli ultimi due anni il comune ha stanziato a favore di AMT 72 milioni di euro di fondi pubblici. Fondi pubblici vuol dire poi fondi dei genovesi, per coprire i costi di esercizio. Il 2013 potrebbe chiudersi in pareggio, ma il comune non ha più risorse per fare fronte ad eventuali ulteriori necessità di capitali. E si è unito alla protesta anche il leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo. Questo è un punto di non ritorno. Il cambiamento deve partire da questa città. Lui solidarizza con i lavoratori in sciopero e ne ha tutti i diritti, però io vorrei capire che cosa propone, perché insomma avevo capito che anche Grillo fosse contro la vecchia gestione delle cose, no? La vecchia casta. Se c'è un esempio, non in tutte ma in molte municipalità di casta, beh, ce l'abbiamo qui. Sono praticamente 2000 le aziende create dagli enti locali per gestire trasporti, rifiuti, distribuzione acqua e gas, energia, 200.000 addetti, ma soprattutto 11.500 poltrone nei consigli di amministrazione. 11.500 poltrone, cadreghe, careghe, nei consigli di amministrazione. E un giro d'affari di 30 miliardi di euro. E poi un titolo su tutti: 4 municipalizzate su 5 hanno bilanci in rosso in un paese serio. Basterebbe questo per dire di che cosa stiamo parlando. E invece no, ci bisogna sempre disquisire. Allora ringrazio il professor Stefano Pozzoli, docente di economia aziendale all'Università di Napoli Partenope. Buonasera professore. Buonasera. Già ospite altre volte anche sul Sole 24 Ore. Grazie anche a Fabio Pavesi, che ha scritto oggi una cosa molto interessante sui conti dell'ATAC, l'azienda dei trasporti romana. Buonasera Fabio. Buonasera a voi. Ora, il tema non è ridurre gli stipendi ai dipendenti delle municipalizzate, lo dico a chi mi sta scrivendo. Il tema è capire se società locali partecipate dagli enti locali che chiudono regolarmente in rosso abbiano ancora ragion d'essere, oppure esistano solo per le 11.500 poltrone che spartiscono sul territorio, quasi sempre di carattere politico. Nessuno dice che devono essere ridotti i 200.000 addetti. Ok, quest'anno il governo metterà 4 miliardi e 9 già destinati nelle municipalizzate, ha detto che non ne può mettere altri, e secondo l'assessore regionale al lavoro e ai trasporti della Liguria, Enrico Vesco, L'anno prossimo il 50% delle aziende di trasporto pubblico locale in Italia chiuderà i bilanci in rosso, mentre 4 su 5 delle municipalizzate hanno già bilanci in rosso, oltre quindi al trasporto locale. Allora, se vogliamo parlare di cifre, professor Pozzoli, due le obiezioni, mi faccia difendere le municipalizzate. C'è chi dice, attenzione, spesso operano in settori, diciamo, dove non è possibile mettere in concorrenza servizi necessari, trasporto locale, dove c'è un elemento anche di tariffa sociale, per cui il privatizzarle vorrebbe dire o generare un flop, un buco nell'acqua, oppure il privato potrebbe entrare solo a costo, diciamo, di massacrare dipendenti o anche costo del biglietto, e quindi, diciamo, con una ricaduta sociale non di poco conto. Ma se parliamo di trasporti, io credo che questo tipo di obiezioni non siano corrette. Anzitutto perché il sistema dei trasporti pubblici locali è sovvenzionato in tutto il mondo, quindi nessuno può realisticamente pretendere che queste aziende vivano di biglietti. Okay. E questo non succede neanche negli Stati Uniti, neanche nel Regno Unito. Cioè una quota parte del bilancio arriva comunque, certo, dallo Stato, perché se no tu dovresti mettere i biglietti a 10 euro l'uno, dico per dare un esempio. Sì, sì, sì, insomma diciamo a 3 euro, 4 euro, ecco. E questa è la prima obiezione. E l'altro elemento è un tema importante di come viene gestito il servizio, se parliamo del trasporto pubblico locale, in scala nazionale, e come viene gestito altrove. Io gli do un paio di numeretti per farmi capire. La prima azienda francese di trasporto pubblico fattura 5 miliardi e ha 60.000 dipendenti. Se noi mettiamo le prime 9 tutte insieme, quindi Milano, Roma, Genova e così via, queste hanno un fatturato di circa 1 miliardo e 50.000 dipendenti, cioè un quinto del fatturato e 4/5 dei dipendenti. Ora è chiaro che dipende che cosa si vuole, però è altrettanto evidente che i costi sono incredibilmente maggiori rispetto a quelli di altri paesi. Ecco, però professor Pozzoli, lei che le studia da tempo le municipalizzate, il problema, ci sono mille diversi casi, sono 2000, oltre 2000, per cui, però il problema di fondo è il numero di dipendenti, quindi inefficienza nel rapporto dipendenti e produttività, oppure anche cattiva gestione dei soldi, perché lo sappiamo, spesso le cariche sono cariche di carattere politico? Ma guardi, io a questa teorica non ci credo tantissimo, a parte che con la spending review le modalità di nomina dei consigli di amministrazione sono cambiate, e quindi oggi su un consiglio di amministrazione di 5 persone massimo 2 sono esterni, per cui nel calcolo delle poltrone vere, calcolando che si parla di 1600 società di primo livello in house, cioè interamente pubbliche, siamo molto lontani da numeri importanti. Se andiamo a vedere il numero dei dipendenti, ovviamente la capacità di pressione politica di tutti questi elementi sono molto più forti, cioè è molto più forte la pressione dei dipendenti che non quella dei consiglieri di amministrazione, sia come... Cioè, diciamola tutta, è più forte la pressione dei sindacati che della politica? Ma lo vede nei casi di oggi, no? A me basta, io non ho nessuna idea, diciamo, precostituita, voglio, grazie è a lei, capire... È chiaro che poi è tutto mescolato, no? Perché... No, certo, però lei dice, certo, sì, fa più notizia, diciamo, il politico trombato, però attenzione che i sindacati in queste municipalizzate svolgono un ruolo, se non più forte, altrettanto pesante, diciamo, inevitabile, perché chiaramente soprattutto nel trasporto pubblico locale, dove il contributo della mano d'opera, per avere un ordine di grandezza, in un'azienda di trasporto le spese del personale sono fra il 60 e il 70%, nel caso del settore idrico sono fra il 10 e il 15%, no? Quindi è chiaro che guardando al trasporto pubblico, dove ci vuole l'autista per muovere l'autobus, gli effetti sono estremi da questo punto di vista. Allora mi dica una cosa, perché poi vorrei passare al caso invece dell'ATAC di Roma, che oggi Fabio Pavesi ha illustrato bene su Sole 24 Ore. Alla luce dei suoi studi e del suo monitoraggio, la soluzione quale sarebbe? Perché è chiaro che se lei mi dice, me lo dico in maniera molto, molto neutra, la soluzione è ridurre il numero di dipendenti, allora in questo periodo io capisco anche la politica, perché con tassi di disoccupazione record, non che dobbiamo caricarci noi, però è anche difficile andare a dire adesso riduciamo il numero di dipendenti o riduciamo la busta paga, mi scrivono alcuni autisti di autobus, 1500 euro netti al mese, vorrebbero levarcene 300 a Genova, vedo un messaggio di un dipendente della municipalità di Genova. Allora, mi dica la soluzione qual è, così almeno capiamo dove deve scorrere il sangue. Ma senta, intanto distinguiamo due tipi di società di servizi, perché noi abbiamo le società di servizi pubblici locali, acqua, gas, trasporti, rifiuti, dove le questioni sono industriali e dove i problemi sono quelli di arrivare a una semplificazione del quadro. Poi torniamo, facciamo un esempio. Poi ci sono le società strumentali o di varia umanità, dove probabilmente si potrebbe usare la mano in maniera molto più pesante. Altra considerazione, cioè bisogna ragionare su che cosa si vuole fra 10 anni, non si può pensare di trovare soluzioni a breve termine. La Francia 20 anni fa era in una situazione di frammentazione come la nostra, oggi non è più così, però ci vuole un'idea, vogliamo semplificare e ci vuole la barra dritta, cioè non transigiamo quando queste semplificazioni non ci sono. Le faccio un esempio, in Toscana sul trasporto pubblico locale si dovrebbe arrivare entro il 2014 a una gara unica ferro-rotaia. Che dovrebbe ridurre i costi di approvvigionamento, immagino. Dovrebbe semplificare il quadro, dovrebbe arrivare in prospettiva l'idea, chiaramente quella di arrivare anche se gradualmente a un'azienda unica e così via. Nel ciclo dei rifiuti Firenze, Prato, Pistoia, Empoli e così via stanno pensando di fare una sola società. Quindi, gara, se vinceranno i soggetti pubblici si arriverà alla fusione, cioè noi dobbiamo puntare a un processo di semplificazione che riduce anche i consigli di amministrazione, però voglio dire si parla veramente di quattro soldi, emotivamente colpisce. No, ho capito quello che dice lei, è più importante avere un unico centro di costo di appaltante che due poltrone in meno, anche se simbolicamente fanno bene anche quelle. Anche perché un'azienda regionale soffre di meno delle pressioni del comune, del singolo comune. Sì, certo, ha ragione anche questo, quindi perché ragiona, ha meno la pressione diretta del comune, certo, dell'azienda comunale. Quindi, se ho ben capito, il suo suggerimento è su alcune municipalizzate stare molto attenti, perché i servizi pubblici locali sono delicatissimi. Sono delicatissimi. Quindi succede quello che è successo a Genova. Quindi vale per i trasporti, acqua, gas e quant'altro. Però ci sono c'è tutto un mondo di altre municipalizzate che invece dove si può andare più con l'accetta, ma non in senso cattivo. Quindi chiudere alcuni doppioni, avere centri di costo, perché non stiamo parlando di settori così delicati. Mi scrive un autista che da 15 anni all'AMT guadagna 2.400 euro, 15 anni di lavoro. Infatti nessuno ha mai detto che gli stipendi siano troppo alti, onestamente è l'unica obiezione che non abbiamo mai fatto. Grazie professor Pottore, le arriveremo ospite perché il tema tornerà, importante quanto lei diceva, nel senso, andiamo a distinguere caso per caso, tocchi l'acqua è un casino, scusatemi il termine, anche perché poi e comunque anche se entrasse un privato vi sarebbero i finanziamenti statali come nel resto del mondo o dei paesi occidentali, altra cosa è la municipalità X o della regione che non fa le gare al comune, quindi ai costi, la città X ha i costi di un certo tipo, la città Y di un altro, basterebbe mettere assieme e già risparmieremo sui centri di costo, oltre che privatizzare seriamente, per esempio in molti casi non capisco certe società che cosa ci stiano a fare. Allora, Fabio Pavesi, va bene tutto, però quando tu fai pagare ai cittadini romani 6 miliardi 400 mila euro tra contributi pubblici e perdite in 10 anni senza mai un bilancio inutile, e mi si chiama l'ATAC a Roma, c'è qualcosa che non va. Allora, l'aumento del biglietto da un euro a un euro e mezzo non ha prodotto praticamente nessun aumento dei ricavi, anche perché questa voce conta solo per il 30% del fatturato. Spiegami perché molti ascoltatori scrivono: va bene tutto, ma almeno controllare i biglietti. Cioè, all'estero l'autista è quello a cui tu devi, quando monti sull'autobus, mostrare il tuo biglietto o te lo stacca lui. Noi abbiamo eliminato l'autista controllore, non c'è più la macchinetta. Quanti sono i controlli all'ATAC, per esempio? Ma noi abbiamo fatto due verifiche, il tema è proprio quello, non è tanto che i dipendenti guadagnano tanto, è che sono tanti e soprattutto mal distribuiti. Cioè l'ATAC di Roma ha 12.000 dipendenti, ha dovuto averne 13.000. 12.000 dipendenti? 12.000 su un fatturato di un miliardo, e quindi, voglio dire, si portano via 500 milioni di euro, quindi metà del fatturato serve a pagare le spese del personale. Il problema è che poi noi abbiamo scoperto che chi controllava materialmente i biglietti erano 70. Cioè, allora, no, tu non puoi tenere su 12.000 dipendenti all'ATAC di Roma ci sono 70 controllori per i biglietti. 70 controllori diventati 130, e adesso da una settimana il Comune fa una campagna in cui ha preso qualche impiegato e l'ha messo a controllare i biglietti, a 400 unità è arrivato. Ma perché? È stata travolta lo scandalo. Però, voglio dire, questa è un'iniziativa che doveva essere fatta 10 anni fa, perché tu hai un'azienda che perde da 10 anni, perché non è vero che tutte perdono. La TM di Milano chiude inutile, a Torino si chiude in pareggio. Allora, uno dovrebbe vedere quelle che chiudono strutturalmente in perdita, evidentemente c'è un problema di gestione. A Genova hanno fatto 7 anni di bilanci in rosso, totale 25 milioni di perdite. Il comune ovviamente ha dovuto ricapitalizzare per non farla fallire. Il paradosso è che tu poi ricapitalizzi, dove credete che il comune prenda i soldi? Aumentando l'IRPEF locale. Quindi il tema è un cane che si morde la coda. Avere un'azienda in perdita non è che la devi tenere perché pubblica la tieni in perdita, perché poi il costo lo paga comunque il cittadino con le tasse locali. Questo è il tema vero. Allora bisognerebbe prendere quelle aziende. L'ATAC era in rosso già tra il 2003 e il 2007, era quella che perdeva di più. Ma io leggo qui: CTP di Napoli ha perso 80 milioni negli ultimi 5 anni, la SIA di Napoli in perdita, l'AMA di Roma in perdita, Trambus di Roma in perdita, la Sogemi di Milano in perdita. Allora uno deve prendere queste società che strutturalmente perdono da anni e andare a verificare come sono gestite, perché uno degli amministratori dell'ATAC si era fatto fare un contratto di consulenza giuslavoristica, cioè lui studiava il contratto di lavoro dei lavoratori e si era fatto dare 220.000 euro di compenso oltre i 350.000 da amministratore delegato. Ecco, queste cose qua avvengono perché non c'è controllo, le nomine sono politiche e gli amministratori non hanno nessun interesse che l'azienda sia efficiente, perché non è loro, non so come dire. No, e quindi il tema è essere molto laici su questa questione. Ha ragione Pozzoli, dice è un settore delicato, perché ovviamente il prezzo del biglietto non può essere un prezzo esorbitante. Però allora chiediamoci perché a Londra e a Parigi le aziende pubbliche chiudono inutile, non in perdita. Evidentemente c'è qualche problema di distribuzione del personale, e insomma avere 70 controlli su 12.000 è veramente un paradosso. Adesso commentiamo la borsa, dovrete accontentarvi di me, e poi passiamo invece al tema IMU da un lato e dall'altro anche al giudizio dell'Unione Europea, o meglio alla vigilia dell'Eurogruppo sulle privatizzazioni italiane, ma anche le dichiarazioni del Premier Letta. La borsa, allora, praticamente invariata la chiusura: Milano meno 0,10%, Parigi più 0,60%, Francoforte più 0,20%, Londra meno 0,10%. Come Milano, lo 0,10% invece lo sta guadagnando il Dow Jones in America. Oggi bancari contrastati, nel senso che Monte dei Paschi soffre meno 2,40%, ma anche il Banco Popolare soffre meno 1,1%, Generali meno 0,80%. Fondiere Assai meno 0,70%, Intesa San Paolo meno 0,60%, UBI Banca meno 0,30%. Bene invece la Popolare Emilia Romagna più 2,50%, Mediobanca più 1,40%, Unicredit più 0,50%. Tra le migliori, oltre a Ferragamo più 3,77%, Mediaset anch'essa più 3,70%, dopo un giudizio positivo da parte della banca d'affari Goldman Sachs. Ancora bene oggi il mondo Fiat, si torna a ragionare sulla possibile quotazione di Chrysler e la fine della questione, il chiarirsi della questione con Weba. Fiat più 1,36%, per Exor, la controllante, più 2,25%. Soffre invece Generali, meno 0,80%, anche per le indiscrezioni su un possibile acquisto di Sace, una delle società da privatizzare. E invece tra i migliori e peggiori in assoluto segnalo, a parte investimenti e sviluppo, più 11,40%, Neurosoft più 11,20%, Tiscali più 10,50%, anche qui voci di un possibile interesse da parte di Sky. Bene Beghelli più 7,90% e Premuda più 4,87%, male Monriff meno 8,77%, Cobra Automotive meno 6,60%, sono i migliori e peggiori in assoluto, e Digital Magix meno 6%. E i temi, visto che parlavamo e accennavamo alle privatizzazioni, i temi che riguardano le privatizzazioni, ma non solo, il giudizio dell'Europa è netto, o meglio, è positivo, perché ha detto l'Europa: bene, il piano di investimenti che avete presentato, dovete però stare anche attenti perché si devono fare interventi strutturali, e quindi le privatizzazioni, i 12 miliardi che arriveranno, sono solo parziali. Però il Premier Letta, che questa sera sarà a Berlino alla vigilia dell'Eurogruppo, che è quello che deve dare il via libera, al di là del giudizio della Commissione Europea, alla nostra legge finanziaria, è stato molto netto sull'eccesso di rigore a livello europeo. Siamo tirati da una parte sul fronte europeo, che sembra per alcuni ayatollah del rigore non credere che il rigore sia mai abbastanza, come se non fosse ancora capito che di troppo rigore questa Europa finirà per morire e le nostre imprese finiranno per morire. E da un'altra parte sul fronte interno, quando troppi pensano che basta semplicemente mettersi a rifare deficit e debito e a ridare soldi senza controlli che il nostro sistema ce la farà. Noi siamo esattamente nel mezzo, e non è semplice perché bisogna avere spalle solide per reggere i due fronti. Antonio Poglio Salimbeni, corrispondente da Bruxelles per l'agenzia di stampa Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, Bruxelles dice bene le privatizzazioni da 12 miliardi complessivamente dati, ora però misure strutturali. Nel frattempo Saccomanni, il ministro dell'economia, ha detto non vi sarà nessuna modifica alla legge di stabilità, alla legge finanziaria. Domani l'Eurogruppo deve dare l'ok, incontro a Berlino, teniamo assieme tutte le tre cose, mi sembra un po' di ossigeno per il governo dopo la semibocciatura della settimana scorsa. Ma sì, in realtà sia da parte italiana ma sia anche da parte europea si dice che non è stata bocciata la legge finanziaria, la proposta di legge finanziaria. In realtà c'è una pressione politica molto forte, c'è stata questa pressione perché alcune misure diano dei risultati già nei primi mesi del 2014. È evidente che l'accelerazione sulle privatizzazioni probabilmente non ci sarebbe stata senza questa forte spinta, questa forte pressione europea. Adesso sono soddisfatti a Bruxelles, l'impressione è che siano abbastanza soddisfatti, vorranno vedere effettivamente due cose: la prima, la conclusione dell'iter legislativo con il profilo di finanziaria 2014 che uscirà effettivamente dal voto parlamentare. La seconda cosa è primi risultati nei primi mesi del 2010 in termini di incassi da privatizzazioni, valutazione delle quote Banca Italia, sistemazione della questione del rientro dei capitali dall'estero. Quanto sarà in termini di miliardi che vuole vedere in termini di riduzione del debito e del deficit strutturale? Probabilmente 3-4 miliardi in termini di riduzione del deficit. Per quanto riguarda il debito, lo stesso incasso da privatizzazioni andrà a ridurre lo stock. Questo va chiarito sempre, cioè questi soldi non andranno, non saranno disponibili per noi, andranno subito a ridurre la componente di debito. Questo lo chiede l'Europa, non è possibile usare questi 12 miliardi per fare altre iniziative di carattere da legge finanziaria. Però la sensazione è che tu, questa sera ci sarà un incontro appunto a Berlino, ma mi sembra che forse anche perché sta montando lo scetticismo nei confronti di questa Europa, non dell'Europa tout court, di questa gestione dell'euro, Mi sembra che anche Letta stia alzando la voce, forse non a sufficienza, ma insomma che il tentativo di andare contro una linea di solo rigore diventi un po' più chiaro. Sì, certamente si può parlare di un asse franco-italiano su questo, poi c'è la Spagna e gli altri paesi del cosiddetto fronte del sud Europa. In realtà lo sforzo in questa fase è tutto volto a premere nei confronti della Germania perché aumenti la propria domanda interna. Di questo potranno beneficiare anche le esportazioni degli altri paesi dell'Eurozona verso la Germania. Da un lato, dall'altro di combinare più strettamente rigore e misure a sostegno della crescita, ma questo è un leitmotiv, è un ritornello che va avanti da qualche non da qualche mese, da qualche anno. Il problema è che l'Eurozona in sé non trova un motore di crescita, perché la Germania diciamo almeno funziona al 40% da questo punto di vista, né esiste un motore unico su scala globale nel momento in cui rallentano i paesi emergenti. Quindi la questione è veramente complicata. Qui ci si divide fra quelli che dicono bisogna intervenire sull'offerta o bisogna intervenire sulla domanda. Sappiamo che bisogna intervenire in entrambi i lati del dilemma. Però mi sembra che la linea europea di non dare a noi quel bonus che hanno avuto Francia e Spagna di poter sforare il deficit al 3,6%, 3,7%, questa linea venga mantenuta o no? Intanto l'Italia non l'ha chiesto. L'Italia non chiede di sforare il deficit. L'Italia ha chiesto un'altra cosa. L'Italia ha chiesto di detrarre dal calcolo del deficit, ma stando sotto il 3%, una spesa che vale lo 0,3% del prodotto lordo, cioè circa 4 miliardi, potevi scontare e gli hanno detto di no. Gli hanno detto di no perché in effetti il debito non cala e questa è una regola, l'hanno votata anche i governi, compreso quello italiano, c'è poco da fare. Il problema è che la Commissione, come sempre, è molto più flessibile di quello che si dice e poi non agisce nel voto pneumatico. In sostanza questa cosa della clausola degli investimenti 0,3% del PIL chiesto dall'Italia oggi è stata negata. Qui appaiono pronti a dargliela a febbraio, quando vedranno qualche risultato sulla spending review da un lato e sulle privatizzazioni dall'altro. In sostanza quasi sempre di 3-4 miliardi si parla. Quindi è quasi una partita di giro, tu dai 4 miliardi a me, cioè fai vedere, avrai dei miglioramenti in termini di deficit di 3-4 miliardi, a fronte di questo calo del debito e concessione di questa clausola degli investimenti. Non la voglio fare facile, ma è molto meno difficile di quello che si pensi. Ok, no, questa è già una buona notizia, cioè tu dici quando poi a febbraio si capiranno un insieme di cose sui nostri conti e anche e soprattutto sulla spending review di Cottarelli, a cui continuiamo a augurare in bocca al lupo, l'Europa potrebbe essere più ragionevole almeno su questo 0,3% a cui tu facevi riferimento. Non è poca cosa, perché mezzo punto di PIL vale circa 7-8 miliardi, quindi stiamo parlando di 5 miliardi circa di possibile PIL da non conteggiare da questo punto di vista. Grazie Antonio Poglio Salimbeni. Anche qui lo spunto è il Sole 24 Ore di oggi. C'è una possibile soluzione sul tavolo del governo, che però soluzione, capirai, paga sempre pantalone. Ce la spiega Gianni Trovati. Buonasera Gianni. Buonasera a voi. Dunque Gianni, ripeto, il cambio di programma ha messo in allarme anche la consulta dei CAF, perché non si capisce più nulla su sta IMU. Ma ripeto, molti comuni, sono 600, hanno messo già in bilancio il gettito dovuto all'aumento dell'aliquota del 2013. Gli mancano 500 milioni di euro. Perché tu scrivi che il rischio è che milioni di prime case possano pagare un'imposta superiore a quella dell'anno scorso? Perché nella bozza di decreto legge, che poi è stata per il momento accantonata e si vedrà se martedì ci saranno altre soluzioni, è previsto che nei comuni che hanno alzato l'aliquota sulla prima casa nel 2013 la differenza fra il gettito dell'aliquota 2012 che viene garantito dallo Stato e quello che manca dell'aliquota 2013 sia a carico dei contribuenti. Esempio pratico: a Milano l'aliquota è passata dal 4 al 6 per mille, il 4 per mille lo paga lo Stato, il 2 per mille lo pagherebbe, secondo questa soluzione tra virgolette, il contribuente, solo che il 2 per mille va conteggiato senza detrazioni e per cui è in molti casi superiore al 4 per mille che è stato versato l'anno scorso e che era alleggerito dalle detrazioni. Certo, è una soluzione che va in leggerissima controtendenza rispetto a quello che ha dichiarato lo stesso Presidente del Consiglio Letta in conferenza stampa, quando ha ribadito che la seconda rata IMU non sarà pagata. Il problema è che questa questione ce la stiamo trascinando da mesi, era nota da mesi ed è ovviamente cresciuta nelle settimane, perché stranamente quando è stata avviata la discussione sull'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale per quest'anno, nessuno ha pensato di bloccare la possibilità dei comuni di variare le aliquote, quindi questi li hanno variati e adesso ci sono 500 milioni in più. Siccome già trovare le coperture dell'IMU calcolata con le aliquote dell'anno scorso è un'impresa pressoché impossibile, visto che stanno aumentando gli acconti di tutti i tipi anche a livelli in qualche caso stellari, chiaramente 500 milioni in più per compensare anche questi aumenti di aliquota al momento non ci sono e ci vuole qualcuno che paghi. Ecco, in tutto questo mi sfugge un elemento: il rinvio al 10 dicembre degli acconti. Delle imposte, a che cosa serve? Il rinvio al 10 dicembre serve appunto al fatto che non si sono trovate ancora bene le coperture per questa maledetta IMU sull'abitazione principale. Si dovranno ritoccare al rialzo gli acconti IRES e IRAP per le imprese, oltre agli acconti IRES delle banche e così via. Solo che questi acconti scadono il 2 dicembre, siamo a metà novembre, abbondante anzi, perché oggi è il 22, e questi acconti vanno ricalcolati, vanno poi pagati, allora bisogna lasciare un po' di tempo in più ai commercialisti che sono già giustamente arrabbiati neri. Il rinvio al 10 francamente non si capisce, a questo punto è meglio rinviare tutto al 16 quando scade anche l'IMU, almeno c'è un pochino di tempo in più. Tu citi anche un rischio di aumento per l'IRES, l'importo sul reddito delle società. Se il governo non riuscisse a recuperare le coperture necessarie, e tra cui c'è anche la definizione agevolata per le concessionarie del gioco, di quanto stiamo parlando sul rischio concreto che scatti la clausola di salvaguardia? Più che un rischio è quasi ormai una certezza, stiamo parlando di 2 punti, quindi aumenterebbe l'acconto sull'imposta per le imprese, passerebbe al 103%, è un acconto un po' strano che supera, diciamo così, il totale dell'imposta dovuta sia per l'IRES sia per l'IRAP. In più, appunto, c'è il fatto che nemmeno il gettito della prima rata, quella che non abbiamo pagato a giugno dell'IMU, è stato integralmente coperto ancora, perché la previsione di 600 milioni dalla sanatoria per le slot machine era una previsione evidentemente molto generosa, tant'è vero che dopo c'è chi dice che era anche poco rispetto a quello Però se tu metti delle regole, si dice che si paga il 30%, è chiaro che poi la stima si deve abbassare, anche perché hanno aderito sostanzialmente metà delle concessionarie, 6 su 10, e quelle con i contenziosi più elevati non hanno aderito alla sanatoria, anche perché il contenzioso è ancora in atto e questi sperano di vincerlo, per cui sai, la sanatoria era molto molto vantaggiosa, però appunto essendo così vantaggiosa ha portato non poco è mai abbastanza. Gettito. Vabbè, l'appuntamento è il 10 dicembre, intanto io ringrazio Gianni Trovati, auguro comunque a voi, nonostante i temi che questo programma è obbligato ad affrontare, e quindi municipalizzate, ma non solo, e anche gestione delle municipalizzate. Molti mi hanno fatto notare che 2.400 euro per un autista sono troppi, mi fido, molti scrivono che un autista con 10 anni di lavoro guadagna al massimo 1.500-1.800 euro netti al mese, non ho mai detto che fossero pochi 2.400 euro, comunque il problema è la gestione, ripeto, e come distribuisci i dipendenti. mi dicono dall'ATAC di Roma che su 12.000 dipendenti solo 5.000 sarebbero poi operativi sugli autobus, sui mezzi di trasporto, con 70 ispettori diventati in qualche modo 400. Da Sebastiano Barigione l'auguro di una buona serata e un buon fine settimana, un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi come sempre per l'assistenza in redazione. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.